non ho potuto essere qui presente quando venivano organizzate le vostre stanze pulite. Ho telefonato da Roma. Sentite, vi prego, date un'occhiata a tutte le stanze perché siano in ordine. Le lenzuola se le porteranno loro come si costuma noi, così, però che la coperta di lana, la sopracoperta, in ordine. Hanno fatto così, certamente, anche molto meglio di quello che io mi aspettavo. Chissà perché. Perché sapevo che io mi sarei trovato insieme a tante persone che mi avrebbero predicato. Che cosa mi predicate voi a me in questo momento? Voi mi predicate il mistero della vostra persona, che è mistero di Dio. Preparate la camera come se Dio entrasse. E questa mattina, senza essere visto, credo, sono andato in refettorio due volte a vedere se la forchetta era al giusto posto, il cucchiaio, al giusto posto, il bicchiere. E quando voi col vostro parlare così vi facevate intendere, io sentivo dentro nell'animo questo mistero di Dio. Sì. Supponete che io abbia letto, ipotesi, 50 volumi per studiare il mistero di Dio. Voi siete presenti in 60? Voi siete 60 volumi. Chi ha più, chi ha meno fogli, chi più, chi meno anni di vita, ma ciascuno di voi è un volume di teologia. Che andiamo tanto in cerca talvolta di chissà quali riviste, di chissà quali volumi. Ma anch'io ho i miei scaffali pieni. Ma quando voglio fare la più bella meditazione, la più deliziosa, non prendo in mano nessun libro. Mi tengo le mie mani una nell'altra. Sono io il libro di me stesso, scritto da Dio, autore Dio. È Dio il mistero della mia persona e della vostra. E quando qui un giovane, sui 16 anni, dopo una mia meditazione sull'esistenza di Dio, mi ha raggiunto nello studio e come mi ha visto, ecco, padre, non credo a quello che lei ha detto. Oh, siediti, siediti e fuma pure la tua sigaretta, siediti. Perché non credi? No, non credo a Dio, io non lo vedo, non lo sento. Ah, calma, io invece ci credo. E mi sono accorto che ci crede. E come si dovrebbe fare a credere come lei crede? Ci vogliono dei libri? No. Ma come si fa? Oh, presto detto, io ci credo in Dio. Adesso poi che qui in questa stanza ci sei anche tu, ci credo più di prima. Ma più di prima, ma perché? Chi sono io? Ah, un bel ragazzo. Guarda, occhi da intelligente, fronte spaziosa. Un bel ragazzo, un bravo ragazzo. Ma tu mi vali più che un libro di teologia, più che tutti i libri di teologia. Tu sei un libro vivo che mi parla del Dio vivente. Questo ragazzo prende la sigaretta, la butta in terra, ci pesta sopra e dice, padre, anch'io finalmente credo. Sì, se non crediamo nel mistero dell'uomo, non crederemo mai per davvero al mistero di Dio. Mi è piaciuta quella espressione di Gorbaciov pronunciata davanti al Papa con le mani giunte. Santo Padre, per me l'uomo, chiunque esso sia, è l'alfa e l'omega di tutta la mia attività, il principio e il fine. Oh, ma uno che crede così nella dignità dell'uomo è già vicino al mistero di Dio. E come? E allora il Papa ha concluso: io mi impegno a pregare per lei, sua famiglia e le sue enormi responsabilità. Mistero di Dio, l'uomo. Chi non crede nell'uomo, non venga a dirmi che crede in Dio. Se non credi nell'uomo che vedi, come puoi credere in Dio che non vedi? E tutti gli uomini che tu vedi giochino o gridino, piangano o che so io, sono tutti testimoni di Dio. Tutti testimoniano il mistero di Dio, il vecchio cadente, l'agonizzante, fino all'ultimo respiro. Anche l'ultimo respiro è testimonianza del mistero di Dio. Perché, amici, chi ha inventato il respiro dell'uomo? Dice la Scrittura che Dio, dopo aver fatto l'uomo, così, dalla terra, impastato, con la creta, se lo guardò e gli soffiò in volto il suo respiro, il respiro di Dio. E l'uomo divenne essere vivente. Il respiro, i nostri respiri, sono tanti misteri, come mistero il battito del polso, ogni battito del cuore, ogni passo che facciamo, ogni pensiero che organizziamo nella nostra mente, ogni atto di volontà.